Я так понимаю, что читать не буду. Повернул, мы понервничаем. А тебя спросить, дорогой. Ха-ха, да, это точно. Блять, а хуй его знает, придешь так зарплату. Ромик зашел. Avanti su 10, non risponde, la linga di separata. Non ti sento, non ti sento. Non ti sento, troppo bassa la radio. Schiappa, ma non posso avere più potenza, non ne ho, un po' di senso, però come mi senti ora? È inclinata a crescere, molto disturbata, non copio nessuno, molto QRM, molto stazionario, un po' un problema. Questi studiamo in FM. Avanti Santiago Lopez, chi è? Giulio, ciao, buonasera. Non sono io, ma dammi un secondo solo che metto a posto una cosa e poi entro. Ok, d'accordo già. Dice c'è molto QRM. È un amico da Canica, Marco ci chiama. È un amico nuovo da Canica. Ma cosa sei? Sei antenna? Sì. Ma che antenna stai usando? Perché io non ti sento. Troppo basso. C'è in mezzo al QRM. Se sei a Canica, se è un tiro di schioppo, la roba sono io. E non sentirti mi sembra un pochino strano. Cosa vuoi che ti dica già? Troppo basso per me. Vai già. Sì, è proprio comunale. Io lo sento, anche se lo sento basso lo sento. Lo capisco cosa dici. Vabbè, si deve attrezzare, mettersi un'antenna come si deve. Meno male che qualcuno stasera è entrato, perché tutta la sera accendo non c'è mai nessuno. Sì, in questo territorio è vero, non stava trasmettendo nessuno. Io provavo, non sentivo niente, non sentivo voci, quindi stavo un comico cambio. Ragione, ma devo mettere l'antenna che sta nella mia scatola, lì dietro di me, ancora non lo dia piazza. Va bene un muratore, poi non c'è nulla di questo, non c'è sempre lì. Ma vedete che sono così, sto mettendo anche da solo. Ma che cosa deve fare il muratore? Metterci due staffe? Scusa, perché invece che bucare il tetto lo attacchi lateralmente nella casa, ti metti le staffe, ti metti una staffa più lunga per, se c'è sporgenza e pure le altre due staffe, che cosa ci vuole? La metti al fianco, invece che metterla sul tetto la metti al fianco, così non stai a bucare le tegole che poi ti possono dare problemi che penetrazioni di acqua, roba del genere. Se no si busca qualcuno che te lo fa, ma io sinceramente non avrei bucato le tegole, tu cosa ne pensi? Se c'è da bucare le tegole significa fare danno alla casa, non hai altre possibilità per poter mettere i due gaffe, non so, che so io, salendo sul tetto ci sarà un muretto, qualcosa, uno spazietto dove mettere i due gaffe. Io bucare il tetto e poi bucare le tegole, insomma, è un po' un rischio, hai ragione tu già, è un po' un rischio. Sì, lo so, si può fare, perché non è che non si possa fare, ma è un lavoro intanto abbastanza, abbastanza impegnativo e poi non so quanto ne valga la pena. Io cercherei un'altra posizione dove posso collocare due raffe magari a muro e poi metterei l'antenna, tutto lì. Avanti, se mi hai copiato, o Walter mi sembra che ti chiami. Marco Aurelio. Come si chiama già? Marco? Aurelio. Marco Cornelio. Aurelio. Ah, Aurelio, ho capito. Non lo so. Ma come ce l'ha adesso questa antenna? Appoggiata al muro così, come ce l'hai questa antenna adesso in questo momento? Come è messa? No, però vedi tu, Marco, vedi tu. Io, anche se alla Mantovana, se c'è sporgenza, io per dire l'ho messa sulla cabina dell'ascensore, c'è una sporgenza di 50 centimetri e praticamente gli ho messo una strappa più lunga che arrivi dopo la sporgenza e le altre ancora più lunghe, in modo che rimanga dritto il palo. Tutto lì, non è che ci voglia molto, le vendono apposta queste staffe qua. E le ho messe, io le ho messe tassellate, non ho fatto manco buco col cemento né niente, le ho tassellate, poi le ho messe tiranti e non si muove di un millimetro. Se no lo puoi fare anche da terra, ci metti un traliccio e lo fai partire da terra, oppure anche il tubo incementato in terra e poi lo fai partire da terra, li metti tiranti e alzi il tubo, molto ci vuole. Solo che devi mettere più metri di tubo, quindi devi mettere un tubo d'acqua di quelli resistenti. Se ci metti il traliccio non è basso. Ci metti il traliccio con la carrucola, ma c'è troppa spesa, non ti conviene adesso fare queste spese qua. Il mio consiglio è mettertela, se c'hai un punto d'appoggio anche al di fuori della casa, che non sono molti metri lontano, se c'è un punto d'appoggio anche appoggiarlo, per dire, se c'è questo non so cosa sia, non ho capito che cosa sia, se puoi appoggiarlo lì, puoi metterlo lì in modo che non tocchi il tetto, capito? Vedi tu, avanti Giulio. Ok, già, non ho capito niente di quello che ha detto. Comunque, se lui mi sembra di aver capito, se ho sentito bene, che ce l'ha attaccata al cammino, forse intendeva la canna fumaria, non lo so che cosa intende, ma evidentemente anche qualche antennino, perché per quanto basso possa essere, perché io sono convinto che lì a Caniga o dove vuoi tu, anche se la metti per terra con un'antenna come si deve, anche con un metro di palo, qui mi arrivi per forza bene, non dico benissimo, ma bene mi devi arrivare per forza. Evidentemente ci sono anche altri problemi, io già, secondo me è così, perché non è possibile che uno da Caniga, dove sono io, praticamente ce l'ho davanti, ce l'ho e non riesce ad arrivare qua. No, non è possibile, già, cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dico. No, lui ha una Ringo, una radio Yaesu, capito? Non ha, ha un'antenna Ringo, solo che non sa, la zona di Canica è un po' zona d'ombra, Giulio, perché anche Franco non arrivava a Purcisimo. Sì, lo sentivo Santiago 7, ma da Canica è un po' zona d'ombra. Sì, capisco che può essere in zona d'ombra, ma arrivare da me, se lui ha un Ringo, e arrivare qui da me, guarda, quasi quasi se allungo il braccio e ci diamo la mano, figurati un po' cosa da qua, nega, qui arrivano Spalati, più forte di Sassari, per cui non so cosa possa essere quell'antenna, o perlomeno come l'ha collocata, non lo so, la verità, non saprei, guarda, non riesco a capacitarmi di questo, di questa situazione qua, non saprei proprio niente come di cosa dire. Lui non è proprio a Canica, al prato comunale. Ah, il prato comunale, è tanto meglio, il prato comunale è già più in alto, il prato comunale è ancora meglio, che è anche più in alto di Canica, per cui dovrebbe arrivare ancora meglio. Guarda che al prato comunale c'è Gianfranco in quella zona lì, e Gianfranco arriva sparato qua, e non lo so, tu mi dirai, ma forse hanno altre capacità nell'aver fatto l'impianto, sicuramente sì, però il prato comunale qua, tanto meglio, Gianni, sono più che convinto, guarda, di quello che sto dicendo. Vai, va, non ti sentiamo più. Adesso sì. Io non ho sentito la chat. No, non ho sentito già, non lo sento, è troppo confuso in mezzo al QRM, non arriva di segnale, non riesce a superare niente. Per cui, ma io mi ricordo che lì a Prato Comunale, anni fa, c'era un certo Angelo Salis, se ricordo bene, che aveva l'antenna lì tranquillamente, ma arrivava sparato, ma veramente sparato qui da me. E lui invece, se in qualsiasi posizione che possa essere del Prato Comunale, mi sembra proprio strano che non riesca ad arrivare qua. Boh, evidentemente c'è qualche altro problema, oltre al fatto della posizione, che può essere anche critica per lui. Sono convinto che magari c'è anche qualche altro problema in antenna, non lo so, la verità. Lui è praticamente, ha spiegato adesso, che la parte bassa del Prato Comunale, che rimane proprio in un fosso, poi ci sono la salita e la discesa e lui rimane sotto. Vabbè, cosa vuoi che dica? Vabbè, dai, comunque, migliorerà la situazione. Poi il discorso che lui a me mi sente, già, lui a me mi sente, io a lui non lo sento, essendo in basso, tu sai benissimo che la ricezione è né più né meno pari merito alla trasmissione, per cui se a me mi sente, a me come mi senti, come si chiama? Marco, mi sembra. A me mi senti bene, poi mi fa la ponte Gianni. Avanti. Magari devi misurare stazionari. Giulio ha detto che ti sente con segnale di nove, benissimo, di radio, e infatti è meravigliato che lui non ti senta, capito? Ma le stazionari le controllate? Boh, non sento più niente. E a te sto dicendo, le stazionari le controllate? Franco! Ho capito. Avanti, break. Buonasera, signor Gianni a Giulio, buonasera. Ciao dottore, c'è anche Marco da Carica, non so se tu lo senti. Appena lo sento, non assai. Santiago quasi zero. sono io solo che lo sento, sentiamo sì. Ma deve avere problemi con l'antenna, deve avere, che se no era c'è tu. Ma arrivi a voi, Franco, a me, ma anche da Prato Comunale, anche in zona bassa, ma arrivi a voi, e io tu mi arrivi quasi zero. Franco, se mi ascolti, buonasera. Ma non avrei problemi di massa, Franco. Marco, non avrei problemi di massa, allora, hai fatto bene il piede. Ti saluta Tore, ti ha salutato Marco. Io che anda bene, a me arriva appena lo sento. No, io lo sento su Santiago sì. Santiago sì, la radio li posso dare due. Se c'è corre me lo copre. Allora devi controllare bene il PL come l'hai fatto. Non lo so se tu lo sai fare, o chi te l'ha fatto il PL. Ma ma la casa dove l'hai messa? Ti ascolto con Santiago 5 e mezzo, sì, dai. La radio è comprensibile ma è bassa. Avanti Giulio. Ok, ciao Tore, ben ascoltato dopo un bel po' di tempo, dai. Tutto bene? Benissimo, meglio di così non si può andare. Ok Tore, meglio di così. Anche se fosse meglio ancora sarebbe più bello, sarebbe più bello se fosse ancora meglio. E allora, cosa mi racconti di interessante dopo parecchio tempo che non ci sentiamo? Cosa vuoi ti racconti? Che ciò che ne è andata avanti, piano piano, giorno per giorno, cosa vuoi che ti dica? Perché ti sei abbassato, Tore? Perché ti sei abbassato il radio? Cosa è successo? Radio. Tore, è crollato il segnale, è brutto. Ho radio e si è abbassata. Allora, zitto. Che la torre a punire gli servirà prima. È calato anche il segnale. Appunto, ho qualche problema, Tore, hai qualche problema, non stai uscendo bene, sei peggio di quello di Ocoso, del Prato Comunale. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti, stavo ascoltando. Sì, Tore è appena entrato, Tore Squalo era 9:20, 9:25, non ho guardato. Adesso è crollato a Santiago 8. Qua c'è Marco Aurelio, 7:30, arriva bene come al solito. Io lo sento Santiago 5:30, sì, dai. Ciao, sì, tutto bene qua. Tore Franti è crollato, probabilmente faccio contatto qualche spinotto, qualche... come si chiamano? Già hai capito. Gli spezzoni maledetti, sai quante volte mi hanno fregato a me? Sì, lascia perdere, quante sudate che mi ho fatto cambiando, risaldato, facendo, lascia perdere, non ha più gara. Succedono queste cose, ma è ovvio, no? Anche perché tutto sommato, dopo tanto tempo che si utilizzano, un po' come si muovono, un po' anche se moduliamo a lungo scaldano un pochino, e allora è chiaro che possono succedere queste cose, ma sono anomalie che uno rimedia subito, non c'è problema. E allora Marco? Giulio, se capisci che cos'è... Ci sono volte che giri, sono compagni di cosa, da cosa può dipendere, e poi magari è qualche ora. Mare o che non fa massa. E io ho fatto tutti gli spezzoni nuovi, poi vado a mettere lo spezzone nuovo e non avvitano, cazzo. Quindi quel PL di Gozo non si viene a nulla. Ho preso 6 PL, ho fatto 3 spezzoni, proprio su misura, tutti fatti bene. Poi sono andato a vitare, tutto contento che li avevo fatti, per avvitare non avvitare PL, ma va a far una vabbè, quello è tutto un altro problema già. Sì, lo so, può succedere a chiunque, però se lo dico a te, se lo dico a Tore, lo dico a Marco, lui è detto ormai già da tanto tempo che facciamo queste cose, ce ne accorgiamo subito. Adesso come vedi, ma Tore sta controllando e prima o poi trova qual è il problema, è chiaro, però inizialmente è uscito bene, invece adesso non arriva quasi quasi qua, per cui per dirti no, come stanno le cose. Ed è, cioè, è differente il discorso tra, ad esempio, il fatto che non sento attore e che non sento nemmeno quello del prato comunale, sono due cose completamente differenti, lo so, perché Tore rimedia subito in un attimo, anzi magari già avrà anche rimediato, adesso vediamo, adesso lo chiamo. Tore, ci sei? Guarda, adesso ho cambiato apparecchio, torno, ho messo quello che c'era prima. Certo, deve essere qualcosa, cioè, con la radio lì. Adesso ti sento, adesso già ti sento, come prima praticamente, come quando eri appena entrato, ma hai visto Gianni, quando l'esperienza subito si rimedia. Invece il fatto di quell'amico del prato comunale, tu mi avevi detto che è nuovo, evidentemente il lavoro che ha fatto non è che sia molto buono, poi posso anche capire tutto, che sia in una vallata, che sia in qualsiasi situazione, però non saprei cosa dirti, perché da me deve arrivare, puoi arrivare basso, ma deve arrivare, non è possibile che tu non possa farti sentire da me, anche perché lui ha confermato che a me mi sente bene, se mi sente Santiago 9, se permetti, almeno lui potrebbe arrivare Santiago 5 qui da me e farsi sentire almeno Radio 1, invece non si fa sentire, evidentemente il lavoro non è fatto bene. Vai Marco, tu cosa intendi, cosa dici tu? Giulio, io non saprei, io non conosco bene come lui di zona, se è molto infossato, se c'ha pareti alte che bloccano l'apertura verso Sassari, e a seconda di che punto è di Caniga, c'erano punti che erano completamente chiusi, cioè il segnale non usciva. Io mi ricordo ai tempi di scuola, avevo prestato in pari un'antenna a un baracchino, un amico di Caniga, amico conoscente di scuola di Caniga, per una prova, ma non arrivava proprio perché era molto a ridosso un po' di quel budello, no, per arrivare giù, già avete capito. E così, dai, prato comunale adesso non ce l'ho presente, ma io giro poco, quindi Gianni, riprendi. E comunque adesso è strano Marco, perché a te ti arriva a 7 e a Giulio che più vicino non gli arriva niente, è un casino. A me mi arriva su 6 segnali, 5,5 sì, posso dare. Ma per dire, Giulio magari è più in basso, io più in alto, capito? Io sono più lontano, ma sono più in alto. Vabbè, le onde radio sono così, non sono imprevedibili le. Però che da Tore, quanto arriva ha detto? 0 addirittura, cioè non lo copia proprio. Vai Tore, adesso sei 9+20. Grazie Dio, con chi così? No, non va bene, qualche problema con l'apparecchio lì. L'ho toccato, non so. E vabbè, se la prende in quel paese. Mi pare che ne rubo tu pure, me lo vendo. Ah, era l'apparato, non l'antenna, ok. Non lo so se è l'apparato o se è l'antenna, dovrei provare l'altro per vedere. No, qua è a posto, qua è appena centrato, eri forte, poi eri sceso, guarda, da 9+20 a... Quanto è che ti ho detto? 7-8, è incredibile la differenza. Va bene, riprendete voi che tanto sto facendo roba qua. Vai Giulio. Ok, vabbè, no, io già lo sento, adesso tu già lo sento bene, non c'è problema. Non so cosa dirti, perché quale baracchino stai usando, Autore, per essere così un pochino scoraggiato al riguardo? Il presidente Jack, come ti vuoi chiamare? Jackson, presidente Jackson probabilmente, così si dice, ovvero vuoi già. Danny? Deve essere che fa bene, se gli è seccata la gola. Gianni si deve essere allontanato, forse facendo qualcosa di importante. Sì, ma è così. Vero Marco, si chiama President Jackson, se non sbaglio, vero? Era con TH piccolino. È così Gianni, Jackson? Sì, Jackson, sì. E ce ne sono diversi modelli, comunque lui mi sa che c'è il Jackson. Ma io, Marco, quello di carica, penso che abbia fatto male l'attacco del PL, Giulio. Non lo chiudere sulla testa, perché non so manco la casa dove si mette, è profano, dai, bisogna farglielo il PL. Appunto, così rischia anche il baracchino, perché così lo brucia anche, oltretutto, chissà quante stazionali ha, cosa verificano, non saprei, cioè se lui non lo sa quello che ha fatto di preciso e se non è sicuro che ha fatto le cose in regola, rischia anche di bruciare i finali. Perciò io a questo punto non lo userei, ecco, prima di aver controllato il tutto e aver sistemato tutto come si deve. Io la penso così, perché devi rischiare il finale del baracchino se magari hai l'antenna messa male o qualche PL fatto male, io non lo so cosa vuoi che ti dica, o addirittura la cosa, l'antenna è regolata male con tante stazionali, che lo sa, non lo so, quello lo sa solo lui. Marco, si è rientrato? E quello c'è un baracchino, c'è una via ISU che sta usando. Quello gli volevo chiedere, se lui con l'altro apparato può controllare le stazionarie, di solito c'è il Rosmet incorporato in quella classe di apparati. E poi che antenna aveva lui, ricordatemelo? La Ringo. Ah? Ringo! Ma quale? Quella che ho avuto io? Quella della LEM? Mamma mia! Spiegato tutto, no? Io dopo un anno l'ho tolta per disperazione. Cioè, non arrivava Sandro di Porto Torres. Non mi copiava, ero nel QRM. Come ho messo questa, mi ha copiato senza problemi. Liscio, 4 watt. E ho detto tutto. E qui entra acqua in quell'antenna, sono difettoso. Appunto, anche quello c'è da dire, la Ringo è stata sempre la peggiore antenna che io abbia mai potuto sentire in frequenza, tutti si sono lamentati, tutti indistintamente, chi ce l'ha avuto la Ringo si sono sempre lamentati, perché in effetti è così, basta un pochino di pioggia e subito è piena di stazionari, vabbè comunque. Sistemerà la situazione. Paolo, sei rientrato? Ah, volevo dirvi anche, all'epoca avevo sul forum l'avevo scritto, allora con la Ringo in città arrivavo più basso di 6 dB, cioè in città arrivavo in Santiago più basso, ma sai cosa sono 6 dB? Un'enormità per un'antenna verticale. Cioè non è una schifezza, lavorava proprio male, mi sono reso conto, ma poi ascolto, una mezz'onda deve essere 5,50, quella te la prendevano come 5 metri e per farla risuonare dovevi mettere lo stilo a 4 metri, c'è una lunghezza, una mezz'onda lunga miseri 4 metri, perché in qualsiasi posizione della bobina non risuonava addirittura sui 24 MHz, io lo so perché avevo fatto le prove. Male, proprio non vale, io l'avevo pagata 37 o 39 euro da Fusaro, ma non vale nemmeno quella cifra. Allora meglio la Venom, molto meglio la Venom. Vediamo se è entrato Marco Aurelio, a me chiamatemi Marcolino, così ci capiamo. Per avere per due stazionali e ci vorrebbero i sono tra uno e mezzo, non di più, e in ogni caso se riesci a avere, se capisci aspetta che abbassi il ricevitore, ecco. Sì, comunque ripeto, io probabilmente sono più favorevole rispetto a te, quindi 7,5, allora qua segna 6,5, però questo smitter segna un Santiago in meno, perché è tarato a 100 microvolt rispetto ai normali apparati che sono tarati a 50 microvolt, quindi segna un Santiago in meno, quindi il segnale reale è 7,5. Quindi vedi, se Gianni e Giulio, se non ha stazionarie, se l'antenna sta andando bene di suo, vuol dire che è poco efficiente. Te l'ho detto, io un Santiago più basso in città, poi fuori città non ne parliamo, non mi sentivano, a Porto Torres per dire. Comunque le Venom sono lo stesso una cosa, una via di mezzo, forse leggermente un gradino più su della Ringo, però sono ambigue, c'è cioè una 5 ottavi, una Venom 5 ottavi lunga 5,80 m, dovrebbe essere 7 metri, praticamente gli hanno fatto, le hanno raccorciate per comodità di uso, no? 5,80 m, e poi il resto è tutto bobina, però la resa sarà molto inferiore a quella di una Mantova, è ovvio, con lo stesso per la mezz'onda, una mezz'onda buona contro la mezz'onda Venom, sicuramente la Venom è inferiore, e tutto in base a quanto puoi spendere, c'è la Ringo proprio base Venom, poi cominciamo a migliorare con queste Energy, non tanto e non assai, vabbè, riprendete voi che devo fare una cosa, vai Gianni. Allora la Venom è Franco arriva a tutte le parti bene con la Venom, l'unica cosa che c'ha è che c'ha una carica con un filo fino. Si rovinano subito perché però quando sono nuove sono efficienti, vanno benissimo, ma te lo confermo perché io a Porto Torres, a Franco California lo sentivo bene, a Torino Kawasaki lo stesso con la Venom, lo sentivo benissimo. Sì, d'accordo già, però hai visto Franco California che posizione favorevole, favolosa anzi, una posizione favolosa, quindi lì anche mettendo un'antenna che non è molto performante, chiaro che va bene, se pompa watt arriva ancora più bene, ma però io quello che volevo dire io, se tu togli la Venom, avessi tolto la Venom e messo una 5 ottavi, proprio ho fatto una prova mezz'ora dopo, tolta la Venom e messo la 5 ottavi, una 5 ottavi buona, lì si sarebbe vista la vera differenza tra l'antenna e l'altra, non a pompare kilowatt o watt o quello che è, capito? Ma comunque la Venom va bene per cose temporanee, per installazioni temporanee, antenne di fortuna, di emergenza, roba del genere, ma non l'avrei messa per un'installazione definitiva, cap. Vai Giulio. Ok, beh, in effetti è così, cosa deve fare di un'antenna che non è performante nella maniera più assoluta? È inutile andare a spendere magari, che so io, 40-50 euro per comprare un'antenna del genere che poi alla fin fine non ti dà nemmeno soddisfazioni. Tanto vale, uno si sacrifica un pochino, ne compra una migliore, ne compra e ce l'ha per tantissimi anni. È inutile stare lì a cinceschiare insieme tra prezzo e qualità di antenna, ma dai, è ridicolo. E poi ricordiamoci sempre il discorso, 10 lire per il baracchino e 100 lire per l'antenna, è quello sempre il punto più importante, l'antenna. Vai Gianni. No, io ho suonato per la LEM, la Super LEM va benissimo questa antenna, l'ho provata, è 1,1 stazionario in quasi tutti i canali, sono le 40, sale 1,2, però va benissimo come antenna, fino adesso va bene. È molto robusta, la parte di sotto è in acciaio, la parte che entra nel tubo giù è tutta in acciaio. Sì, ma è un altro discorso già, cioè se la monti tu l'antenna, la monto io, la monta Marco, il discorso lo sappiamo benissimo che la sistemiamo alla grande, anche se è un'antenna da 4 soldi, magari ci dura il tempo che dura, quello sì, non ci sono dubbi, ma per dire, ma tu a un principiante come Marco del Prato Comunale o dove, la dai a lui magari non la conosce come si deve fare, e ripeto, rischia anche di bruciare i finali della radio, perché non è possibile, dai, non è possibile. Quando uno è principiante o si deve far aiutare da qualcuno più esperto o perlomeno vedere un po' la situazione, perché mi sembra un pochino strano che non arrivi dal prato comunale, che non arrivi da me, perché qua deve arrivare sparato come sono arrivati tanti altri. Arrivano sparati addirittura dalla macchina, figurati un po' dall'antenna dalla stazione fissa. Non so cosa dirci. Vediamo se Tone riprende. Tone, sì. Perché non ci dovrei essere? Che aspetta? Te lo sto dicendo, Franco mi arrivò forte, Santiago 7, ma del radio era forte. C'è qualche cosa lui. Poi con gli Aesio dovete arrivare ancora più forti. Così so io. A me mi sa c'ha problemi con l'antenna, Così è vero. Anch'io sono che lui ha problemi con l'antenna, non può essere diversamente. Caspita, con uno Iaesio, se permetti, qualche vatti più anche là del baracchino, a meno che lui non l'abbia saputo regolare anche in quello, perché tutto è da vedere, Gianni, non so cosa dirti, è tutto da vedere, da considerare, anche la sua manualità nell'usare l'apparecchio. Cosa ne sappiamo se lo ha regolato bene? Cioè, io non dico che lui sia una persona ignorante, no, nella maniera più assoluta, anzi, sarà sicuramente anche più intelligente di me. Però se uno che non è esperto e non sa usare una certa apparecchiatura, ecco che lì arriviamo al problema. Il discorso è quello. Lui ha detto gli Aesus, ma l'ha controllato le stazionarie. Cosa ha detto Gianni? Io non lo sento. Le stazionarie le ha controllate. E lui ha detto che c'è un E1, un E2 di stazionari. Ma c'è un cugino che è radioamatore, basta che ci vada il cugino, penso che qualcosa la sappia fare, un piede lo sa fare. È un radioamatore di Alghero, quindi il cugino magari non aiuta. Se si fa dare una mano, tanto è guadagnato, perché noi siamo, io la verità sono anche curioso di sentirlo come si deve, perché mi farebbe tanto piacere sentirlo come si deve, perché non è possibile poter modulare, se non ti sento, non ti sento, perché basta un pochino di QRM più del solito, come oggi ad esempio è una giornata piena di QRM, e per cui lui qua non arriva, eccetto qualche parola, qualche sillaba che riesco a estrapolare dalla radio, ma niente di più. Avanti Marco. Marco ci deve essere allontanato. Quale Marco? Marco Aurelio, avanti. Ciao Marco, ci sentiamo. Fatti sentire migliori condizioni, se vuoi. Avanti Giulio. Domanda, avete provato in FM? Perché sapete che viene soppresso il rumore e gli aumenta anche la modulazione della tutta. Siamo sempre in AM, vabbè. Se n'è andata adesso. No, vabbè, sì, già ho capito, no, ma prima non l'avete provato. Ciao Marco Aurelio, buona proseguimento di serata e sentiamo. Comunque qua, anche la modulazione è buona in rapporto al segnale. Cioè, non è bassa come... addirittura gli avete dato Radio 1 qualcuno, cioè non è massa tipo omologato, tipo quelli omologati che ormai non escono in radio, qua è discreta anche la modulazione, in FM poi non è spettacolare, in FM era una telefonata, avevamo provato. Giulio, riprendi. Ok, se c'è ancora l'ascolto lo saluto a Marco Aurelio, per cui però fammi contento, fatti sentire Marco, sistema la situazione e fatti sentire. ci fa piacere se tu rimani con noi a chiacchierare col baracchino eccetera, però fai in modo che io ti possa sentire, che ti possano sentire bene anche gli altri, perché sinceramente così non è possibile, purtroppo, e mi dispiace veramente. Comunque ti saluto e spero che tu possa ritornare al più presto in maniera veramente decente da poterti ascoltare alla grande. Va bene, dai, non so se se ne è già andato, se mi ha sentito, boh. Avanti Tore. Lo saluto anch'io, ciao Marco, arrivederci alle prossime, più bene. Ok, andà bene. E così è, purtroppo. Sta qui Parigiani, per la parada. Non risponde. Gianni, bevuto hai? Sì, ho dormito dopo pranzo. Ma ci hai detto? Che ho dormito dopo pranzo. Andare. Avanti Marco. Mi sembra che Marco stava modulando. Marco Aurelio, ancora ci sei. Aveva confermato i saluti, anche sì, cioè vi ha copiato tutti, da. Io dico che se avessero la Turbo 2001 che c'ho io a casa, sul tetto, sarebbe uscito più poco, perché io da carica lì vado a mettere il gas e con giuro ci parlo, ma normalmente, vero? Già, e chi hai rilanciato? Perché lei un po' ti confonde. Aspetta, che cambia il microfono. Aspetta, forse è entrato Giovanni da Sorso. Attento Giovanni da Sorso, sei tu? L'hai sentito Gianni? Non l'hai sentito a Gianni da Sorso? Qua nulla, Gianni doppio zoom. Allora sta cambiando il microfono Gianni. Ok. Ciao, ben sentito, dai, ti ascolto tranquillamente io. E se non ascolti io che lo ascolta, chi vedete di fronte a Sorso? No, io sono a Sassari, ma mi risulta di fronte Sorso, capito? Abito alla fine di Sassari, in periferia. E qua si Santiago Radio 5. E a sentirci, là, ho capito. Avanti Giulio, ci sei. Sì che ci sono. Sì, te l'hai ordinata l'antenna e hai fatto bene. Hai fatto bene Gianni di Sorso, hai fatto bene a ordinare l'antenna, così almeno ti sentono anche gli altri, perché Marco purtroppo non ti ha ancora sentito, da quando tu sei entrato ancora Marco non ha avuto il piacere di sentirti, per cui quando metterai l'antenna nuova senz'altro ti senti. Sì, Gianni di Sorso ha un'antenna tipo bastone, non so, o forse bazooka, non so come si chiama, ma una cosa del genere, o Gianni, è per quello che arriva basso. E Marco da Sassari non lo sente a Gianni, vero Marco? No, negativo, anzi guarda, oggi togliendo lo squelce capivo qualcosa infinitesimale di qualcuno che parlava, ma era incomprensibile, c'è Radio Zero. Quindi il contrario di Marco Aurelio, se voi lo copiate a coso e io non lo copio, capito? Questione di posizione, da, e vabbè, in quel caso anche di antenne. Comunque la Ringo non l'avrei mai più ricomprata, adesso vabbè, lui gliel'hanno regalata, però una schifezza. E conta che era su un palo da 6 metri la Ringo, 6 metri di palo, questo invece il palo è 3,70 metri, più vabbè, sollevato un metro a terra il palo, era proprio una porcheria quella Ringo, quindi anche i materiali, poi si stava togliendo il radiatore, no, il radiatore dall'isolatore, si stava staccando, e quasi era tenuto solo dal mollone, ma ti rendi conto, poteva cadere in testa a qualcuno, proprio antenna fatta di cacca, permettete il termine. Vai Vittore. Buonasera anche a Gianni del Sorso, io già l'ascolto, mezzo correre, ma già l'ascolto, quindi se lui si ascolta va benissimo, ok? Sì, l'ascolto bene. Eppure tu ce l'hai di fronte a Sorso, Otto. Ma bisogna vedere dove lui si è nascosto, lui. Ma arriva basso a me. Ma qua arriva bene. E forse anche, magari trova uno spirale. Io mi ricordo quando modulavo con PMR, con Giulio, io c'avevo PMR omologato, eppure con lui parlavo tranquillamente, perché c'era un varco dove passavano le onde e arrivava di diritto a casa di Giulio. Sì, sì, ma è così, è così. Vabbè, Gianni di Sorso abita né più né meno, se voi lo sapete, dove abita Franco, abita vicino, nella zona di Franco di Sorso, per cui dovrebbe essere una zona, non dico buonissima perché è leggermente più in basso, però discreta. Io comunque a Gianni di Sorso lo sento bene, lo sento benissimo, non c'è problema, ma l'ho sentito sempre, dal primo momento che l'ho intercettato, l'ho sempre sentito molto bene, per cui qua Sorso arriva alla grande, veramente. Purtroppo Marco non l'ha ancora sentito ed è per quello appunto che io ho detto poc'anzi che con l'antenna nuova che gli sta arrivando, come ha detto lui poc'anzi, se avrà modo anche di sentirlo Franco, cioè Marco, avrà modo di sentirlo anche Marco, per cui va bene così. Avanti Marco. Lui per caso ha detto se mi copiava, però vabbè, in queste condizioni magari sì, con 4 watt no. Sì che ti copia, lui ti copia, ti copiava anche la volta scorsa, quando eravamo in QSO, alcuni giorni fa, 3-4 giorni fa più o meno, e lui ti copiava, eri tu che lo copiavi lui, perché appunto con un bastone, lui ha un bastone, Gianni, presenterai quelle antenne tipo bazooka che si usano per la barca, però la barca va bene perché c'è il piano riflettente del mare e può anche andare bene, ma così a casa per farsi sentire non è che è un granché, capito Gianni di Sassari? Sì, a Ciar Mangarello, già ho capito qual è, l'ho avuta anch'io quella lì, c'è una zona che non serve a nulla. ho capito. Gianni di Sorso, ma dove sei tu? Dove c'è la macchinetta sul tetto? E io quella zona la conosco perché passavo per trincare, per andare verso Senoli, passavo da quella strada. Ma io venivo lì, scaricavo la merce e poi andavo via, capito? Perché io lavoravo per il tourist market, prima ero autista e portavo la merce nei negozi. Portavo la merce e poi me ne andavo, portavo i freschi, tutta quella roba lì. Adesso non c'è più. Esatto. Capo, e tu abiti quella zona lì? Ho capito la zona quale dai. Vabbè. E allora con Franco vi splatterate. Kappa, Giulio, te mi sai. Sì, e beh certo, e guarda che anche Gianni è un vecchio CB, o Gianni di Sorso. Gianni di Sassari anche lui è un vecchio CB e certi personaggi li ha conosciuti anche lui al baracchino, per cui non credere che sono solo io che li ho conosciuti, siamo in tanti, perché ormai tutti quelli che sono rimasti più o meno siamo un po' anziani della frequenza, diciamo che bene o male ci siamo conosciuti tutti. Va bene, dai, comunque vi devo lasciare. Purtroppo è arrivato il momento, le 7:28-29, dai. Vi devo lasciare già, la terapia a quest'ora. Ci sentiamo. Ciao Gianni di Sassari e Gianni di Sorso, salutoni a tutti e due, grazie per le due chiacchiere, alle prossime Resentici. Ciao Marco, salutoni anche a te naturalmente, a Resentici presto anche con te, e salutoni anche a Tore. Tore, fatti sentire sempre, sul 23 non c'è più nessuno, ho visto, allora fatti sentire qua, sul 10, così almeno cambiamo 4 chiacchiere. Ok, rilancio a Tore, poi ascolto il finalino di tutti e poi chiudo per questioni di terapia. Avanti Tore. Ok, ci sentiamo alle prossime, a risentirci. Ok, ciao Giulio, fammi bene. Avanti già. Ciao Giulio, grazie per il questo, infatti un po' più spesso che io la sera accendo sempre. Comunque Falconero, se non è che sia adesso, però io l'ho sentito tempo fa. Avanti Marco. Sì, ciao Giulio, dai, buon proseguimento di serata, buon tutto. E io Giovanni non lo copio, quindi da stacco anch'io, intanto devo fare una lavatrice. Breve. E quindi, ciao Gianni, Tore, Giovanni da Sorso, e ci sentiamo quando capita, io non dico domani, non dico quando capita, perché tanto c'è sempre qualcosina a fare, dai. E buon proseguimento di serata. Vai Gianni. Ciao Marco, là, ci sentiamo. Grazie per il questo, quando vuoi sarò qua. Avanti Tore. Cosa vuoi che ti dica? Barzellette, le vuoi sentire? O altro? Andate. Piuttosto, volevo chiedervi, ma non state più entrando sul 23, ho capito, ma Gian Maria come sta? Marco, arrigentici alle prossime, se sta chiudendo. Ehi, ma non hai copiato? Mi sente sovramodulare. Ah, vabbè, no, ho detto, Gian Maria come sta? Non state più entrando al 23, no? No, da quando è morta la signora, no, non è più entrato, quindi non so nulla. Nulla di nulla. Me l'aspettavo. Vabbè, purtroppo la vita è così. Vabbè, dai signori, ci sentiamo in migliori condizioni a patto che arrivino. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Marco. Avanti Gianni di Sorso. Cappatore, a che ora devi chiudere tu? Meno un quarto? Sì, a meno un quarto chiudo. Poi ci puoi sarra prima, ma pessimi. E allora ci tratteniamo altri 10 minuti, dai. KK, chi te lo fa il lavoro Gianni? Adesso con questo apparato, vedo, mi senti, questo qui è un altro apparato. E io lo conosco quello lì. Io ho avuto l'FM500S, che 500 ho avuto io. E avevo fatto una modifica che li praticamente rinforzava la manopola dei canali e invece che gli altri 34 canali ce ne dava 40. Ascolti il radio come sta arrivando a Sorso? No, ma non il segnale, la radio mi interessa se sto scendo bene di radio. Va bene, dai, torna avanti. Sì, a me mi sentirà basso lo stesso. Così, l'unica cosa. Così è, confermi se mi senti basso. È meglio così. Già va bene così allora. L'importante è che ci sentiamo. Avanti già. E sta salendo il nuvoloso, sta salendo. Domani mattina ci troveremo col nuvoloso, ci troveremo. Quindi, sarà così. Ma cos'hai, artrosi? Carità, io invece ho la gamba che mi sta dando problemi. La mostalgia, mamma mia, la grimba. Non mi vengono tipo crampi, cazzo. La grimba viene. No, non è quello, te lo dico di sicuro, perché io le teste del femore, tutte e due le gambe le ho operate e mi hanno messo la protesi, quindi non è quello. E questo è niente, io sono quello zoom, mi ho operato tutti e due gli occhi, al ginocchio, tutte e due le gambe, poi i liga si vanno operando. Guarda, sono tutto operato, uno zombie, via. Così è. L'hanno votata questa Meloni, sta facendo un casinonello, ma comunque parlando dell'intelligenza artificiale, la stanno usando per clonare le voci, per dire la voce di tua figlia, la clonano, ti chiamano e ti dicono, con la voce di tua figlia dicono, papà vieni subito, ha avuto un incidente, i genitori accorrono subito, mi stanno portando all'ospedale, vanno all'ospedale, loro vanno, gli aprono la casa e gli rubano tutto. E auguria, una signora a Portotorre si aveva appena ritirato la spesa, ma la spesa, la pensione, ha appoggiato la borsetta sopra il mobile all'entrata perché c'era la madre che era paralitica, questo me l'ha raccontato lì. Detto, signora apposta, scende a firmare, lei è scesa a firmare, gli altri sono saliti dall'ascensore, l'hanno burato la borsetta, cadete a sedere dove era la borsetta. E allora a me mi conosci, io ho lavorato 42 anni a Porto Torre. E vabbè, c'era anche molta gente di Sorso che lavorava con me. Gian Gabbino Pina. Sì. Beh, a quell'età. Cava, dai, io vi saluto tutti. Tore, ciao, io sto andando a portarci giù il cane. Ci sentiamo, dai, grazie per il questo. Ciao Gianni, anche a te, ci sentiamo alla prossima. Probabilmente, dai, ci conosciamo, perché se tu frequentavi via Satellite, io a Satellite portavo la merce nel negozio, quindi ne conoscevo molta di gente via Satellite. Ciao, ciao, auguri per la schiena. Ciao, ciao Gianni, avanti tu. Sì, ok, ci risentiamo Gianni di Sorso, alle prossimine. Ok, ciao, stammi bene. Già, io chiudo lo stesso. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Gian. Ciao, ciao, alla prossima, ci sentiamo, ciao, ciao.